Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In un'intervista pubblicata il 25 gennaio sul Sunday Times, lo scrittore inglese Martin Amis aveva proposto l'eutanasia di massa dopo i 70 anni per riequilibrare la situazione demografica ed economica. Dal Corriere della Sera risponde ora Raffaele La Capria, a 88 anni, che spiega per quale ragione non ritiene di aver vissuto da abusivo negli ultimi 18 anni. Ho letto tempo fa, riportata dai giornali, l'intervista rilasciata al Times da Martin Amis, che propone un'eutanasia di massa come rimedio per equilibrare la situazione demografica ed economica che si sta determinando in molti paesi. Tra 10 o 15 anni ci sarà una specie di guerra civile tra vecchi e giovani, dice. Dunque dovrebbe esserci una cabina a ogni angolo di strada, dove se hai l'età giusta puoi prenderti un martini. E la pillola della buona morte. L'età giusta per il suicidio generale sarebbe 70 anni. Io, che ne ho 88, ho dunque già vissuto 18 anni abusivi, secondo lui. La proposta di Amis credo abbia origine più che da un esibizionismo autopromozionale, dal pragmatico e very English senso comune portato alle sue estreme conseguenze, come quello di Jonathan Swift, che nel 1729 avanzò la sua modesta proposta di cucinare i bambini e darli come cibo in tempo di carestia. Data la situazione, mi chiedo se sarebbe auspicabile che in Italia tutte le persone al di sopra dei 70 anni decidessero di passare a miglior vita. Dopo i 65 godrebbero di 5 anni di pensione a carico dello Stato, ma non di più. E poi, seguendo il suggerimento di Martin Amis, un bel cocktail con stricnina risolverebbe il caso, addormentandoli per sempre in una morte indolore e istantanea, col vantaggio di pareggiare il bilancio dei conti pubblici e di far largo ai giovani, perché ogni anno in più dei 70, vissuto da un anziano, sarebbe un anno sottratto al futuro di un giovane. Dopotutto, 70 anni sono una bella porzione di vita e potrebbero bastare, secondo Martin Amis. L'eliminazione dei vecchi era una consuetudine e un rito presso alcune tribù dove il problema di procurarsi il cibo per tutti era drammatico e assillante. Raggiunto un certo numero di anni, il vecchio veniva lapidato e ogni membro della tribù doveva gettare la sua pietra perché quella che comunque veniva sentita come una colpa fosse da tutti ugualmente condivisa. Tornando al cocktail proposto da Martin Amis, ci sarebbe secondo lui anche il vantaggio di evitare una morte più dolorosa, che purtroppo può capitare, e gli altri inconvenienti riservati agli ultra settantenni quando per loro comincia il tempo in cui la morte si sconta vivendo e quando ogni giorno si accorgono di morire un po', o perché sono messi da parte e dimenticati, o perché vedono che il mondo cambia e va per conto suo in una direzione che non è più la loro. Quando cambiano le canzoni e cambiano i gusti, le abitudini, le parole, i punti di riferimento, e cambia la storia, quando a ognuno capita di vedere morire gli amici intorno e le persone care, e i personaggi che nel suo mondo furono famosi, quelli in cui si riconosceva, che segnavano un'epoca, un attore, un regista, uno scrittore, e li vede cadere a uno come i soldati di una trincea troppo battuta dal fuoco nemico, e vede che se ne vanno e subito vengono dimenticati. «Ora basta», mi dice una voce irritata. «Oggi, lo sai bene». Un settantenne è come un cinquantenne di una volta, anche se non può più dirsi giovane. La voce mi scuote dalla depressione che la lettura dell'intervista di Martin Amis mi ha procurato. Faccio un esame del tempo che ho vissuto dai miei 70 anni ai miei 88 e tutto sommato non mi lamento. Questi 18 anni sono stati per me un dono del cielo, importanti anche per la mia formazione, perché ho imparato e visto e sentito cose che non immaginavo. Caro Martin Amis, bevilo tu. Se così ti piace il tuo cocktail mortifero. Se lo avessi bevuto io, non avrei scritto 3 o 4 libri che a scriverli mi hanno dato qualche soddisfazione. Non sarei stato tante volte felice, di una felicità diversa e più pacata anche quando molte ombre l'attraversavano. Non avrei conosciuto altri paesi, non avrei nuotato nei mari tropicali e visto le meraviglie di una barriera corallina e così via. Sono tante le cose che ho fatte e che mi sono capitate dopo i 70. E se vado più in là, molto più in là dei 70, Anche le abitudini arrivate in questo mio ultimo tempo hanno dato un andamento piacevole alle mie giornate. Svegliarsi al mattino senza l'obbligo dell'orario d'ufficio o di un lavoro mi ha dato tante volte un senso di inaspettata libertà. Uscire a fare due passi col mio cane guappo, andare a comprare il giornale, leggerlo in poltrona come un rito e un legame con le cose che accadono, vedere ogni tanto un amico, sfogliare un libro, guardare un film e perfino la televisione, col gatto accucciato in grembo e il cane ai tuoi piedi. Questo tipo di abitudine può essere come una ninna nanna che ti aiuta ad addormentarti nel sonno finale. Fuori c'è il mondo con tutti i suoi orrori, è vero, e non lo ignoro. Mai potrei ignorarlo. Non mi va di chiudermi nell'egoismo dei vecchi e conosco la distrazione percipiente, ne ho già parlato, ma l'età che ho raggiunto mi impedisce ogni azione diretta. Mi esclude da ogni chiamata alle armi e l'unica battaglia che mi consente è quella che faccio con le parole che vado scrivendo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Raffaele La Capria, Che bella la vita a 70 anni, dal Corriere della Sera dell'8 marzo. Una ricerca realizzata da Eurocontrol elenca i peggiori aeroporti europei in merito alla puntualità. Fiumicino si classifica al secondo posto. Peggio dell'aeroporto romano c'è soltanto quello delle Canarie, ma per una manciata di secondi. Non ce l'ha fatta ad arrivare primo, ma è solo secondo nella classifica dei peggiori. L'aeroporto di Fiumicino è in testa nell'elenco degli aeroporti che accumulano maggiori ritardi. La statistica è stata stilata da Eurocontrol, l'Organizzazione Europea per la Sicurezza del Traffico Aereo. Tra gli scali continentali europei, il Leonardo da Vinci è nella top 10, con almeno 9 voli in ritardo ogni 20 in partenza. Ad aggiudicarsi invece il primo posto in questo elenco di ritardatari cronici è un piccolo aeroporto, quello di Las Palmas alle Canarie, dove i voli in partenza hanno registrato in media nel 2009 ritardi maggiori di quelli degli aerei in partenza nello scalo internazionale di Fiumicino. Per una manciata di secondi, una media di 18,8 minuti di ritardo per ogni volo dell'anno, contro i 18,9 di Las Palmas, lo scalo di Roma-Fiumicino si aggiudica il secondo posto nel rapporto annuale. Non è la prima volta che Eurocontrol colloca tra i peggiori in classifica l'aeroporto di Fiumicino. Secondo quanto riporta il sito dell'ENAC, Fiumicino detiene da tempo la medaglia d'oro per ritardo medio dei voli in partenza tra gli aeroporti europei. L'anno scorso in aprile, mese caratterizzato dalle vacanze pasquali, il ritardo medio in partenza superava i 20 minuti, un dato che rappresenta la media tra i voli decollati regolarmente e quelli in ritardo. Considerando solo questi ultimi, il loro ritardo medio è molto superiore ai 20 minuti. Nella geografia dei ritardi si scopre che, come spesso accade, penalizzato è il sud. A pesare sui ritardi in partenza a Fiumicino sono i voli da Roma per Bari, al secondo posto per ritardi, Palermo, al quarto, Catania, quinto. Poi Roma-Madrid, al sesto, e Roma-Malpensa, al nono. E tra i 10 voli che in Europa accumulano più ritardi, il peggiore è il Ginevra-Londra, ben 5 sono in partenza dallo scalo romano, che diventano 9 nei peggiori 20 con i voli Roma-Londra, 13° in classifica, Roma-Torino, 14°, Roma-Venezia, 15° e Roma-Cagliari, 18°. Sulla mancanza di puntualità a Fiumicino pesano i difficili 3 mesi estivi, quando i disservizi delle società di handling hanno creato molti disagi a partire dal caos bagagli. Ma per l'Eurocontrol, i servizi delle compagnie aeree e degli handler, causa anche il rodaggio della nuova Alitalia, hanno pesato a Roma più che in tutti gli altri aeroporti ai primi posti per ritardi in partenza. Nella top 50 di Eurocontrol figurano altri 9 aeroporti italiani. Gli scali di Catania, 19°, Malpensa, 20°, Palermo, 26°, Cagliari, 27°, Napoli, 29°, Bologna, 30°, Venezia, 31°, Torino, 32°, Linate 50°. Nel confronto con l'anno precedente, la media dei ritardi al decollo nel 2009 è aumentata a Fiumicino del 13%. Nel rapporto su dicembre, Fiumicino scompare dalla classifica dei 20 scali con maggiori ritardi e viene indicato tra quelli che hanno migliorato la media. Il confronto è con l'ultimo mese della vecchia Alitalia, ormai in disfacimento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marina Cavalieri, Ritardi, la maglia nera a Fiumicino, da Repubblica dell'8 marzo. Letture di Radio 24. Immol- molti paesi islamici, ma anche tra i musulmani residenti in Italia, è diffusa la pratica di sfigurare con l'acido il viso delle donne che si sono rese responsabili di un tradimento, che hanno rifiutato una proposta di matrimonio o che semplicemente hanno espresso il desiderio di voler studiare. Ma da qualche anno esiste in Italia un'organizzazione di medici volontari che si occupa di ricostruire chirurgicamente il volto delle donne sfregiate dai talebani. È la bellezza terrorizzare i talebani. E in questo caso i talebani non sono soltanto i guerriglieri islamici che gettano l'acido in faccia alle studentesse afghane, sono anche i padri e i mariti che ogni anno sfregiano i volti di centinaia di donne e bambine musulmane, donne punite per aver rifiutato un'offerta di matrimonio, per il sospetto di un tradimento, perché vogliono studiare, per la delusione provocata da una dote non corrisposta secondo le attese. Accade anche in Italia, lo dice la nostra cronaca. La bellezza di questi volti femminili orientali, dall'Afghanistan al Pakistan, viene ogni giorno rubata per sempre attraverso un miserabile acido delle batterie d'auto. È un'organizzazione italiana a occuparsi, soprattutto in Pakistan, della ricostruzione chirurgica di questi poveri volti tumefatti, anneriti e piagati dall'odio. Smile Again è un'organizzazione non governativa, nata in Friuli, che ha curato un centinaio di donne musulmane. Il loro lavoro è tanto più eroico a giudicare dagli allarmanti dati della Fondazione Sopravvissute all'Acido, secondo cui l'acidificazione è molto aumentata negli ultimi 2 anni. Acidificate perché basta un bicchiere in pieno viso e il tessuto della pelle è divorato in un istante. Si perde la vista, il capello non ricresce, si blocca il movimento facciale, costringendo spesso ad alimentarsi di liquidi per mezzo di una cannuccia. L'acido penetra fino alle ossa, intaccando i muscoli. In alcuni casi le vittime muoiono, altre tentano il suicidio. Non sopportano la vista di quei tronchi umani. E poi i danni causati dall'acido sono molto più gravi delle ustioni da fuoco, che durano soltanto finché la fiamma è accesa. L'acido invece continua a corrodere anche molto tempo dopo. Donne punite spesso nel momento in cui sono più indifese, nel sonno, o mentre aspettano di raccogliere l'acqua. Gli sciarioti, gli oscurantisti della legge islamica, le famiglie offese dalla libertà di queste ragazze, non gettano l'acido per uccidere, ma per marchiare la sopravvivenza. Secondo Smile Again, non è nemmeno possibile ipotizzare il numero delle donne colpite. È difficile sapere quante siano, perché è una questione di disonore. Le ragazze si sentono in colpa. Mi hanno acidificato perché ho sbagliato. Così non parlano, dice al foglio la signora Daniela, segretaria audace di Smile Again. Ad aiutare queste donne ci ha spinto il loro grido di aiuto apparso su libri e giornali. I nostri medici vanno diverse volte all'anno in Pakistan. Si scelgono i casi più gravi. Una persona, per riavere un volto umano, non diciamo bello, va operata più volte, fino a 15 interventi. Una ragazza di Lahore aveva il volto come un manichino, era cieca, le erano rimasti soltanto dei bellissimi denti. L'acido scioglie la pelle come una candela. L'anno scorso una ragazza pakistana era in cucina con il ragazzo. Lei gli ha detto che non lo voleva. Lui le ha bruciato la faccia. Oggi ha soltanto metà volto intatto. Perché l'acido? Perché agisce rovinando il viso senza uccidere. E il viso perché è la loro unica ricchezza. Sono ragazze povere ma belle. Dopo l'acidificazione saranno inutili. La loro unica ricchezza è la bellezza, il colore della pelle. Così alla donna si ruba tutto. Una ragazza è stata qui 3 anni, mi accarezzava i capelli, diceva che anche lei li aveva. Così le abbiamo ridato anche i capelli, con vari trapianti. Il dottor Lo Sasso, fondatore di Smile Again, sta per tornare in Pakistan. L'ultima che ho operato aveva 16 anni, aggredita da un uomo di 42, acidificata al volto, al torace e agli arti. Tutte le sue fattezze erano devastate. Parliamo di bambine, abbandonate spesso anche dalla famiglia, che si vergogna di avere una figlia colpevole. Daniela ci parla di Nasrin. Aveva 15 anni. Un uomo di 35 anni la corteggiava. Lei ha rifiutato le proposte. Nasrin stava dormendo quando l'acido le ha bruciato tutto. Il nervo ottico, il bulbo. C'era tutta la famiglia di lui a bruciarla. In Italia si sentiva in colpa. L'unica cosa che la gratificava era il risarcimento avuto dai genitori, poverissimi. Nasrin è tornata in Pakistan. Ha di nuovo un volto. Non vede e legge in Braille. Ma è tornata a vivere. A Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulio Meotti, I talebani bruciano la bellezza con l'acido, alcuni italiani la ricostruiscono, dal Foglio del 3 marzo. Il mese scorso il presidente brasiliano Ignacio Lula da Silva ha avuto un colloquio con Fidel Castro a L'Avana. Sulle pagine del Paese, Mario Vargas Llosa esprime tutta la sua indignazione dopo aver visto Lula abbracciare sia Fidel che Raul, proprio nei giorni in cui le repressioni seguite alla morte del dissidente Zapata avevano evidenziato come quello cubano sia ancora oggi, dopo 50 anni di dittatura, uno dei regimi più disumani e crudeli del continente. Ho provato una sensazione di rabbia e disgusto quando ho visto il ridente presidente Lula del Brasile abbracciare affettuosamente Fidel e Raul Castro, nello stesso istante in cui gli sbirri della dittatura cubana si avventavano contro i dissidenti e li seppellivano in cella, per impedirgli di assistere alla cerimonia funebre di Orlando Zapata Tamayo, il muratore pacifista oppositore di 42 anni appartenente al gruppo dei 75, che la satrapia castrista ha lasciato morire dopo 85 giorni di sciopero della fame. Chiunque non abbia perso la decenza e abbia un minimo di informazione su ciò che accade a Cuba, si aspetta dal regime castrista che si comporti esattamente come ha fatto. C'è una coerenza assoluta tra la condizione di dittatura totalitaria di Cuba e una politica terrorista di persecuzione contro ogni forma di dissidenza e di critica, la violazione sistematica dei più elementari diritti umani, processi falsati per sotterrare gli oppositori in carceri immonde e sottoporli a vessazioni fino a farli impazzire, a ucciderli o a spingerli al suicidio. I fratelli Castro praticano questa politica da 51 anni, ma da Luis Ignacio Lula da Silva, governante eletto con legittime elezioni, presidente costituzionale di un paese democratico come il Brasile, ci si aspetterebbe perlomeno un atteggiamento un po' più degno e coerente con la cultura democratica che in teoria rappresenta. Invece si pavoneggia tra sorrisi e complicità con gli assassini virtuali di un dissidente democratico, legittimando con la sua presenza e condotta la caccia agli oppositori scatenata dal regime, nello stesso momento in cui si faceva fotografare abbracciando i giustizieri di Orlando Zapata Tamayo. Il presidente Lula sapeva perfettamente ciò che faceva. Prima che partisse per Cuba, 50 dissidenti cubani gli avevano chiesto un'udienza durante il suo soggiorno a L'Avana e di intercedere con le autorità dell'isola per la liberazione dei prigionieri politici martoriati, come Zapata, nelle gattabuie cubane. Lui si è negato ad entrambe le cose. D'altra parte, questo comportamento del presidente brasiliano ha caratterizzato tutto il suo mandato. È da anni che la sua politica estera smentisce sistematicamente la politica interna, dove rispetta le regole dello Stato di diritto e in economia, invece delle ricette marxiste che proponeva quando era sindacalista e candidato, dirigismo economico, nazionalizzazioni, rifiuto degli investimenti stranieri, eccetera, promuove un'economia di mercato e di libera impresa come qualsiasi statista socialdemocratico europeo. Ma quando si tratta delle relazioni estere, il presidente Lula si spoglia degli orpelli democratici e abbraccia il comandante Chavez, Evo Morales, il comandante Ortega, ossia il peggio dell'America Latina, e senza il minimo scrupolo apre le porte diplomatiche ed economiche del Brasile alla tirannia teocratica dell'Iran. Tutto questo significa, ahimè, che Lula è un tipico presidente democratico latinoamericano. Quasi tutti sono fatti della stessa pasta e quasi tutti, chi più chi meno, pur praticando la democrazia in casa propria, quando non hanno altra scelta, all'estero corteggiano senza pudore dittatori e demagoghi come Chavez o Castro, perché credono, poveretti, che grazie a quella vicinanza potranno godere del titolo di progressisti e che questo gli redimerà da scioperi, rivoluzioni e intimidazioni contro i giornalisti e dalle campagne internazionali che gli accusano di violare i diritti umani. Il volto di uno qualunque dei presidenti latinoamericani avrebbe potuto sostituire quello di Luis Ignacio Lula da Silva mentre abbracciava i fratelli Castro, nella foto che mi ha fatto rivoltare lo stomaco mentre leggevo i giornali. Quei volti non rappresentano la libertà e la pulizia morale in America Latina. Questi valori sono incarnati da figure come Orlando Zapata Tamayo, le dame in bianco, Oswaldo Payà, Elisardo Sanchez, la blogger Joani Sanchez e gli altri cubani e cubane che continuano a sfidare la tirannide castrista e sono incarnati anche dalle centinaia di prigionieri politici e in particolare dal giornalista indipendente Guillermo Fariñas, il quale, mentre scrivo questo articolo, è già da 8 giorni in sciopero della fame a Cuba per protestare contro la morte di Zapata e chiedere la liberazione dei prigionieri politici. Curioso e terribile paradosso che sia in seno ad uno dei regimi più disumani e crudeli mai conosciuti dal continente che oggi si trovano i più degni politici dell'America Latina. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mario Vargas Llosa, Lo scandaloso abbraccio di Lula ai tiranni Fidel e Raúl Castro, da El País del 7 marzo. Traduzione di Francesca Buffo dal Corriere della Sera dell'8 marzo. Se è vero che, come cantavano i Buggles 30 anni fa, la televisione ha ucciso le star del radio, l'avvento di Internet ha, a sua volta, dato un duro colpo alla TV, mentre la radio ne ha tratto vantaggio. Video Killed the Radio Star. La canzone dei Buggles del 1979 annunciava una rivoluzione dai tratti apocalittici per il sistema musicale. MTV, la televisione che ha formato le generazioni di giovani di tutto il mondo, scelse il videoclip dei Buggles come manifesto. Andò in onda il 1 agosto del 1981, a mezzogiorno, mostrava delle radio che esplodevano e tanti televisori che irrompevano sulla scena. Il titolo ritornello è diventato un tormentone tra gli studiosi di comunicazione di massa, ma oggi MTV, come canale unico, è in crisi e Video Killed the Radio Star fa da colonna sonora a una marcia di Würstel. La melodia è irresistibile, la voce ritardata e gli accordi al piano spezzano languidamente il cuore. Ma la profezia che ha provato ad autoavverarsi sembra aver fallito. La TV ha tramortito le star della radio, ma con l'avvento di Internet è la TV tradizionale ad aver subito un contraccolpo fortissimo. I talent show musicali impongono i loro cantanti all'industria discografica, ma poi è il circuito radio a consacrarli. Fanno più clamore spesso cantanti che si affermano con Internet, attraverso video homemade e siti dove si scarica la musica. La radio, inoltre, si è integrata bene con le nuove tecnologie perché ne condivide i principi base: interattività, facilità di produzione e riproduzione, maggiore democraticità. A ciò si aggiungono dei pregi che sono propri della radio: confidenzialità e familiarità, educazione e minore volgarità, sospensione dell'incredibilità, se Wells racconta la guerra tra i mondi, l'ascoltatore ci crede, linearità del racconto, in radio non si può parlare assieme. Non è un caso, forse, se la radio, intesa come talk radio, non solo dunque come canale di promozione musicale, ma come luogo di dibattito, chiacchiera, informazione, intrattenimento, in Italia sta funzionando sempre più come camera di decompressione per star della TV in calo di popolarità o passibili di eccesso di visibilità. La radio ha il grande pregio di affidarsi alla voce, ai suoi toni, colori, alle emozioni, senza l'invadenza dell'immagine. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luca Mastrantonio «I video killer hanno fallito, la radio è viva», dal Riformista dell'11 marzo.